salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi diciamo che ascoltiamo alcuni lavori usciti recentemente che si possono riferire alla storia dell'avanguardia. Infatti il concetto di avanguardia è poi un concetto legato a una capacità di ricerca che naturalmente si svolge poi in momenti storici diversi, quindi in contesti culturali che sono sempre diversi tra di loro. Però ci sono alcuni musicisti che hanno legato la loro figura a questa una disciplina di ricerca che ha poi determinato delle forme che hanno lasciato traccia e conseguenze in quello che è avvenuto successivamente. Il primo disco dal quale ascolteremo un paio di brani è un lavoro, una bella scoperta, un disco di inediti di Lenny Tristano, del gruppo di Lenny Tristano, quindi un sestetto, registrato a Chicago nell'aprile del 51. È una registrazione naturalmente fatta dal vivo, non è il massimo della qualità tecnica, però insomma direi che il risultato artistico rende nota, anche tra l'altro rende omaggio anche a un momento nel quale, a un anno nel quale non sono poi tante le testimonianze dei lavori di Lenny Tristano, quindi questo sestetto è decisamente una parte interessante di questo straordinario, grandissimo artista che ha lasciato poi una traccia dalla quale hanno raccolto testimone tutte le avanguardie anche degli anni 70, a cominciare da Braxton, per non parlare degli altri. E la formazione è quella classica, abbastanza classica, nel senso che Liconis al contralto, Warren Marsh al tenore, straordinari entrambi in piena forma, poi Buddy Jones alla batteria e Dominique Simonetta Buddy Jones al basso e Dominique Simonetta alla batteria. Si aggiunge come sestetto il trombone di Willie Dennis. È interessante vedere come il quintetto classico di Tristano ha una compattezza formale straordinaria. L'aggiunta di Willie Dennis, che era un onesto trombonista, ma che poco aveva a che fare anche col linguaggio tristaniano, poi avrà una storia sua più legata a certe formazioni di mainstream del periodo. Morirà nel 65, piuttosto giovane, in un incidente stradale. Però è appunto un onesto musicista che si trova ad annaspare con una certa capacità, ma insomma comunque ad annaspare tra le forme molto, molto spigolose del linguaggio tristaniano. Ascoltiamo due classici, due reinterpretazioni, una All the Things You Are, quindi uno standard più che conosciuto e anche spesso eseguito da Tristano, e poi una rielaborazione di All of Me fatta da Warren Marsh. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'd like to play All of Me. This is written by Warren Marsh. Thank you. Era il sestetto di Lenny Tristano, con naturalmente Tristano al pianoforte, Lee Konitz al contralto, Warren Marsh al tenore, Willie Dennis al trombone, poi Buddy Jones al basso e Dominique Simonetta alla batteria. Una registrazione del 51, quindi diciamo che era un momento anche di punta, di maturità, di quello che è stata appunto la costruzione armonica di Tristano, che ha poi portato avanti per tutta la sua breve, purtroppo, esistenza. Un altro delle pagine, in questo caso, come dire, in questo lavoro di Tristano, non aggiunge molto a quanto già si conosceva di questo pur molto misurato musicista, anche nel numero di incisioni, ma Jimmy Jaffery, questo disco uscito qualche mese fa di inediti, è una bella testimonianza di un momento del quale si conosceva anche molto poco, si conosce tuttora piuttosto poco di questo periodo. È una registrazione fatta a New York nel 66-67, quindi è un periodo, poi come dire, ci saranno diversi anni prima di poter riascoltare Jimmy Jaffery in qualche registrazione discografica. Passeranno, credo, mi sembra, fino al 72, non se ne sa più nulla. Ma comunque è un periodo di sperimentazione, di ricerca timbrica e anche nel contesto cameristico che amava particolarmente Jaffery, oltre che a quello orchestrale come arrangiatore, del quale aveva già dato diverse prove. Ma in questo disco doppio è testimoniato un doppio gruppo, il primo formato da, oltre che da lui, al sax tenore, sempre, come dire, più frequente il tenore del clarinetto, e poi dopo il tenore verrà più o meno abbandonato negli anni successivi. Joe Chambers alla batteria in entrambi i gruppi, poi nella prima formazione si aggiunge il contrabbasso di Richard Davis, e quindi un gruppo, come dire, di musicisti legati alla tradizione, però con un'attenzione particolare all'innovazione e alla a una certa avanguardia, sia Joe Chambers che Richard Davis. L'altro gruppo invece è decisamente spostato in un momento successivo di quello che è stata la storia di quegli anni da un punto di vista delle avanguardie, delle tante avanguardie nel jazz, ed è una formazione con Barry Phillips al contrabbasso, piuttosto giovane evidentemente, poi avrà una sua carriera importante anche con collaborazioni con musicisti importanti, penso a John Sarman, alle esperienze più importanti di Sarman, ma anche con Sam Rivers e con diversi altri. E al pianoforte un pianista interessante, Don Friedman. Don Friedman è stato un pianista che ha cominciato negli anni 50 a collaborare anche con Ornette Coleman, poi dopo ha collaborato con Mingus, con Booker Little, Dolphy, insomma ha avuto una serie di esperienze di quel tipo di mondo che ricercava delle forme diverse senza spingersi diciamo nell'improvvisazione totale e che però appunto lavorava molto su un piano armonico e quindi anche una preziosa occasione. Poi saranno sempre meno le opportunità di Don Friedman, che si spegnerà in una sua carriera ma senza avere altri momenti importanti di partecipazione. Ascoltiamo un brano che era stato registrato per la prima volta nel 61, quindi aveva un brano che è diventato una sorta di classico, una sorta quasi di della stessa strada percorsa da Tristano nel famoso Requiem dedicato alla morte di Charlie Parker. In questo caso, anche in questo caso, è un blues, è una rivisitazione, una sorta di trasposizione di un'immagine del blues. Ascoltiamo questo bellissimo brano. Thank you.

era Jimmy Jaffery in una delle composizioni più conosciute sue, Cry Want, con al pianoforte Don Friedman, straordinario, questo tipo di, come dire, di armonizzazione che riprende anche quelle di Paul Bley naturalmente, e poi al contrabbasso Barry Phillips, oltre che Richard Chambers, Joe Chambers alla batteria. L'ultimo lavoro che ascoltiamo oggi è una ristampa in questo caso, ma preziosa, di un musicista che ormai è dimenticato dai più, probabilmente la mia generazione se lo ricorda per la sua presenza anche a un festival di Bologna alla fine degli anni 60, è un musicista inglese, Joe Heriot, del quale poi morì piuttosto giovane, quindi nel 73, dimenticato un po' anche l'importanza che ha avuto sulla scena inglese. È un musicista che sicuramente ha segnato quelle che erano le strade dell'avanguardia per quegli anni. Sto parlando della fine anni 50 e inizio anni 60. E Joe Heriot era giamaicano, però si trasferisce da ragazzetto, a 15 anni si trasferisce a Londra e collabora immediatamente con Ronnie Scott e tutto quello che era un po' la compagine inglese di quegli anni. Ma alla fine degli anni 50 viene influenzato sicuramente dalla musica di Ornette Coleman e comincia un percorso che però diventa piuttosto autonomo, verso anche un linguaggio del quale si sentono i riferimenti non solo a Coleman ma anche a Booker Little, a Eric Dolphy, a quello che è queste ricerche dell'inizio anni 60, fine anni 50, inizio anni 60, però con delle originalità proprie. E quindi ben venga anche questa ristampa di una sorta di cofanetto, insomma sono tre dischi che vengono raccolti in questa ristampa e sono i primi dischi a nome di Joe Heriot. Si tratta di Abstract, Southern Horizons e Free Forms. E raccolgono un materiale registrato tra la fine del 59 e i primi mesi del 62, soprattutto però durante il 60 e il 61. Ascoltiamo alcuni brani presi da due di questi lavori, da Abstract e Free Form. La formazione è un quartetto sostanzialmente, al quale poi si aggiungono in altre occasioni altri musicisti, però in sostanza è un quartetto, è sempre quello, sempre lo stesso, oltre a Joe Heriot al sax contralto, Sheik Kane alla tromba, Pat Smith al pianoforte e Coleridge Good al basso. Ascoltiamo adesso alcuni brani da questi, appunto, da questa ristampa preziosa. Thank you. Questo era il quintetto di Joe Herriot, un quintetto Joe Herriot, alto sax londinese, proveniente dalla Giamaica, ma comunque cresciuto culturalmente a Londra, che alla fine degli anni 50, inizio anni 60, appunto ricercava strade dell'avanguardia. Sarà poi questo un pioniere di quello che avverrà dalla metà degli anni 60 in poi a Londra, che è stato sicuramente una delle esperienze musicali più creative, più importanti sulla scena, non solo jazzistica peraltro. Questo era anche l'ultimo ascolto, questa preziosa ristampa di tre long playing usciti a suo tempo per la Jazzland. E questo era l'ultimo ascolto, potete riascoltare l'intera trasmissione, trovare anche le indicazioni discografiche nel nostro sito radiocittafugico.it, la sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima. Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.